bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucking house bored and I'm bored in the motherfucking house bored. Bored in the house, bored in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. I'm bored in the motherfucking house bored and I'm bored in the motherfucking house bored. I need me a thick chick sitting on the couch and I'm going through my Netflix. Bored in the motherfucker, I ain't even doing shit. Tell her pull up, make it shake like Nesquik. Neck frozen with nowhere to go, bitch. Popping COD on the PS4. Tell the bitch chill like refrigerator doors. We can heat up some ramen, can't go to the store. Can't even go on tour. Nigga so bored, I'm losing my mind. All these girls, tell them one at a time. Nigga still hating, tell them catch me outside. I'm finito, finito. At home like Depot, Depot. Ay, she gon' suck it like Mosquito, Mosquito. I ain't lying, she a Leo, Leo. Ay, married to the money, dressed in tuxedos. I control your mind like I'm Magneto. Got my Vans on and they look like sneakers. Explore like Dora on a hunt like Easter. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucking house bored and I'm bored in the motherfucking house bored. Bored in the house, bored in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. I'm bored in the motherfucking house bored and I'm bored in the motherfucking house bored. I'm in the crib like an infant with some Badu playing burning incense. Badu, tonic, gin mixed in. Snoop House shoes getting down in the kitchen. Ay, I'ma socialize at a distance. I'm living my best life, minding my business. And my anti-socials for the win-win. Lockdown, I'ma stay, staying in. Ramen noodles every night from my din-din. Hulu binge, watching episodes of Ben 10. And I got T-Raw for assistance. Bad boy, I'ma at the bar like a piston. In quarantine, I'm the quarterback. MVP, I'm scoring that. In the pool here. Shout out DoorDash. With the napkins. I need more of that. Ay, can't find the remote. Out of control. Out of my mind. Out of my hands. Out of my soul. Honor the code. Got my locks blocked. Blinded in gold. I'm in a house and I'm so damn bored. I'm in a house like Corey. Where you can find me like Corey. E viratevi. Qui Alex Foti su radiovirus.org. È sabato 18 aprile. Non che ci si accorga veramente dei weekend. Anche se stamane sono stato colto da una strana forma di amnesia. Ho aperto gli occhi e ho detto vai, scendo a prendere un espresso e poi vado al mercato perché qui in Comasina è sabato. E, brevemente, insomma, secondo dopo mi sono reso conto, no, è pandemia, zero routine, felice del sabato. E, insomma, vabbè, devo dire la verità che spesso e volentieri bigiavo di andare al mercato, però il caffè lo prendevo sempre con l'amico spesso del quartiere. Vabbè, niente, oggi l'argomento dibattuto è a livello interno, regioni nord contro regioni sud sulle riaperture e dall'altra parte il voto sui corona bond, che sono stati bocciati al Parlamento europeo, l'emendamento presentato dai Verdi europei è stato votato votato contro da Lega e Forza Italia. Mentre c'è stato un voto a favore dei recovery bonds, non è detto, c'è un'apertura in questo senso alla mutualizzazione, però diciamo a recovery investment fund, che era anche la base di un accordo italo-francese prima del vertice. Il vertice conclusivo si dovrà tenere il 23-24 aprile, se non vado errato, e dovrà appunto dirimere la questione. Certo che comunque il voto del Parlamento europeo va in direzione di un compromesso più favorevole all'Italia. Niente, sul discorso della benedetta fase 2, che diciamocelo chiaramente, in Lombardia siamo 11.000 morti, ogni giorno muoiono 200 persone. Qui a Milano la curva è piatta, non è che si può dire che siamo fuori pericolo, e il pericolo si annida nelle case, si annida nelle case di cura, si annida nelle aziende, si annida nei supermercati, i lavoratori costretti a lavorare, essenziali, certo, però essenziali my ass, perché devono lavorare non protetti e si espongono al virus. Amazon è ancora... deve ancora proteggere sufficientemente i propri dipendenti. E, niente, quindi in questo quadro epidemiologico non positivo, Sì, ricorrono voci su come riaprire gli uffici e le fabbriche, se fare i turni a scuola, se impedire ai diciottenni di uscire, se a quelli che ne hanno meno di 18 impedire ai vecchi di uscire, come bisognerà stare in spiaggia con gli ombrelloni a 2 metri di distanza minimo. Ma calcolati da dove? Dal bordo, eh sì, insomma, direi dal bordo. Insomma, dobbiamo camminare pensando, sapete come quei campetti di calcetto per bambini, no? Oggetto anche di un recente meme, no? Che sei circondato da un gonfiabile trasparente, che così non ti possono fare male. Ecco, l'idea è che bisognerebbe avere sempre un raggio di 2 metri intorno a sé. In Germania, dove la pandemia è stata tenuta sotto controllo velocemente, la gente va all'aperto, fa i picnic e comunque quindi si possono già pianificare azioni di protesta. Ende Gelände ha ritwittato appunto la foto di questi attivisti che segnavano con quegli spray da arbitri che si usano anche nei campi calcistici le distanze di 2 metri dove gli attivisti che fanno la protesta si devono porre. E quindi, insomma, forse sarebbe anche il caso che noi iniziamo a pensare a Milano alle geometrie delle manifestazioni in mascherina a maggio. E direi che questa può essere la conclusione della prima parte della trasmissione. Questa trasmissione va in onda il martedì, il giovedì e il sabato alle 17, ed è oggi seguita da uno scoop d'eccezione alle 17:30 con Stefano Mansi, Milano Virus, voci dalla città infetta, ci farà ascoltare alcuni vocali dalla Baggina, dei dipendenti del comune, la questione dei morti non conteggiati, di assoluta importanza, inediti mai ascoltati prima. È un servizio alla città che Radio Virus rende. Ok, ci sentiamo dopo, amici e amiche. Viratevi e viratevi, qui Alex Foti su radiovirus.org da Milano Nord, trasmettiamo sulle fibre ottiche di Milano, è il 18 aprile. Niente, passiamo alla seconda parte della trasmissione commentando il mio Twitter feed, qui c'è appunto una bella notizia dei fratelli e delle sorelle di Share Radio, che sono stati oggetto di questo articolo l'altro ieri sul Corriere della Sera. Da Dergano a Giambellino, in radio vanno in onda le case popolari, è una radio territoriale che esiste da anni, da più di 5 anni, l'ho seguita dagli inizi, è Nicola Mogno, anche se nell'articolo è Mongo come il pianeta di Flash Gordon, e con quello salutiamo e niente, vabbè, è pieno di refusi, il Corriere e tutti gli altri quotidiani, ancora più di prima. Ogni dittongo è un rischio. Allora, niente, appunto qui c'è un'intervista tratta da Fanpage di Portata d'Europa Verde a Ska Keller, la leader dei parlamentari verdi europei. Voglio assicurare ai cittadini italiani la mia solidarietà e il nostro impegno come Verdi per la ricerca di una vera soluzione europea, in senso ovviamente solidale a Francia, Spagna e Italia. Niente, qui una notizia di biocontrollo securitario che fa incazzare. Al supermercato con la moglie disabile, lei 72enne, disabile al 100% in sedia a rotelle, lui 74 anni, è sceso per accompagnare al supermercato, ma gli sbirri non hanno voluto sentire ragioni. 900 euro per entrambi. E niente, ovviamente la crisi dell'industria alberghiera ha travolto la forza lavoro in prevalenza femminile, che rifà i letti, che pulisce le camere, eccetera. In Spagna le ragazze, le signore, le donne, le compagne che svolgono questo lavoro si chiamano Las Kellys e hanno costituito contro la precarietà un collettivo che negli ultimi 10 anni ha riportato significative vittorie sindacali, per esempio mi viene in mente il Cortes Inglés, e adesso subiscono una doppia precarietà, una doppia povertà, perché ovviamente il settore turistico è gravemente colpito. Solidarietà a Las Kellys. Niente, Banksy, anche lui è quarantenato e fa una cosa incredibile, riempie di topi del suo maestro di stenciling, Black Leroy, che è un francese, di topi le pareti di casa sua, e vediamo la vera opera in uno specchio, che è un topo che l'avevamo iniziato a fare anche qui, però poi ci siamo rotti i coglioni di fare come i carcerati, ogni 3, ogni 4 sbarrare, fare 5, insomma conteggiare la quarantena in questo modo, la maniera dei detenuti, dei reclusi, insomma vabbè, siamo agli arresti domiciliari, non siamo veramente detenuti. Allora, da Amnesty Italia, donne e ragazze nelle Americhe si trovano ad affrontare i peggiori livelli di violenza domestica, sessuale e di genere a livello mondiale. Con la crisi del Covid-19 i governi devono evitare un'ulteriore impennata della violenza di genere e poi impegnarsi a eliminare il problema per sempre. Qui c'è appunto un corteo anarcafemminista, probabilmente a Santiago del Cile. Qui, vabbè, Potere al Popolo non è il mio partito, però comunque Viola Carofalo è simpatica e soprattutto rimette a posto Del Debbio, a cui dobbiamo la ripartizione di Milano in 9 zone, ora municipi che non c'entrano un cazzo l'una con l'altra perché sono spicchi di centro affluente e di periferia povera che hanno problemi opposti, e le periferie ci perdono sempre. Vedi adesso Sala, il sindaco di quelli che hanno la seconda casa, che fatica a soccorrere le periferie. Meno male che ci sono le brigate volontarie per l'emergenza, e che salutiamo, compagni e compagni, siete l'orgoglio di Milano. Niente, qui appunto la Carofalo dice: invece di impiegare i droni per controllare chi fa le grigliate, utilizziamo uomini e mezzi per controllare che nelle aziende ci siano veramente misure di sicurezza e tutela per i lavoratori. Solo così possiamo evitare la diffusione del Covid e ripartire. Trump precipita nei sondaggi, ale. Qui c'è il Digital Strike, ragazze e ragazzi da tutto il mondo, qui è Dennis for Future. Tutti i bambini hanno il diritto di essere istruiti sulla crisi climatica, di ricevere insegnamento a riguardo, perché sta minacciando il loro futuro e hanno il diritto di apprenderne. Chiediamo climate education in tutto il mondo, climate strike online, Fridays for Future, da ieri. Niente, qui c'è una lavoratrice di Amazon che dice: Amazon mi ha fatto venire i capelli bianchi. Vi sfido a postare un video di 10 secondi su che cosa dovrebbe fare Amazon e perché non lo fa per proteggere i suoi lavoratori. Niente, vabbè, l'architettura si sbizzarrisce sui nuovi interni post-covidici, come tutti i separé di plexiglass, le camere di decontaminazione che si stanno pensando per riportare la gente al lavoro. Sì, ma la gente a partecipare alla sfera pubblica, la gente a partecipare alla sfera degli affetti, di questo non si parla. Comunque i bambini in Danimarca sono tornati a scuola, anche nei nidi. No, nei nidi non lo so, ma di sicuro nelle scuole materne. Milano ha fame, le brigate partigiane entrano in azione. Ecco, Stefo Massi, che mi seguirà purtroppo, avrà testimonianze dirette del fatto che l'Inedia è tornata a minacciare le persone a Milano, come non si vedeva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una cosa incredibile. Ci sono più di 30.000, 33.000 mi sembra, richieste di buoni cibo, di coupon per fare la spesa, beni di prima necessità, e non ci sono abbastanza soldi, e quindi si dovrà discriminare ulteriormente sulla povertà assoluta. Niente, qui c'è un guidatore di Uber con la mascherina e i guanti, che con un cartello che dice "Pay for our work", pagate il nostro lavoro, perché lo Stato della California sta pagando i sussidi di disoccupazione, ma i datori di lavoro Uber e Lyft resistono la classificazione dei guidatori come dipendenti, e quindi c'è una fiera battaglia legale in corso. California non è toccata così pesantemente come lo stato di New York dalla pandemia, ovviamente gli Stati Uniti in testa, seguiti da Spagna e Italia. Niente, a San Raffaele a 120 euro ti fanno il tampone, questa è la bella sanità privata lombarda. Il palinsesto di Radio Virus di oggi, alle 17.30 Stefano Massi sulla strage al Trivulzio, i dipendenti del comune infetti e i morti non contati di Milano, con testimonianze che non lasciano appello, un'esclusiva. Qui niente, c'è... Da un certo punto di vista è la mia bestia nera, è Guy Standing, che ha scritto Precariat, questo libro in cui dice che la Mayday aveva una visione barbara del problema della precarietà. Sì, sta di fatto che noi abbiamo messo precarity in lingua inglese e precariat pure prima di te, almeno 5 anni prima. Comunque, il tipo, che è un boomer del 48 con dottorato a Cambridge, adesso mi sembra insegna a SOAS, dice che in questa situazione, a maggior ragione, il reddito universale sarebbe meravigliosamente liberatorio. Questa è un'intervista in catalano, non so se è anteriore alla crisi. Ecco, però volevo dire che, siccome la sua teoria sociale del precariato mi sembra particolare e non adeguata, io ho scritto in risposta, 5 anni dopo, la teoria generale del precariato in inglese. Ora, quello che a me mi faceva incazzare Guy Standing era, a parte la cosa dismissive sulle Mayday, vabbè, pazienza, ma il fatto che lui diceva che il precariato andava a destra. Ora, quelli che hanno votato a destra nel 2016 tutto sono tranne che il precariato. Insomma, il precariato è multietnico, in America è nero, in Francia è magrebino, in Italia è, cioè, voglio dire, multiregionale, fuori sede, e ovviamente c'è, cioè, il popolo multietnico di seconda generazione che abita a Milano, i sino-milanesi, gli afro-milanesi, gli slavo-milanesi, quelli che riempiono le scuole ora chiuse. Niente, la pandemia ha fatto 20.000 morti in Spagna, ormai siamo a livelli purtroppo peninsulari. Mi chiedevo quanto Valencia-Atalanta abbia inciso nell'innesco dell'epidemia nei due paesi. Niente, questo è un conto, un account di Twitter di Climate Ban, che insomma seguitelo se però non abbiate paura di farvi scoraggiare, insomma è uno che ogni giorno dà notizie climatiche tristissime. Questa è molto riepilogativa. Allora, uno, morte degli ecosistemi chiave entro il 2029, rischio immediato alla Grande Barriera Corallina. Le foreste tropicali ormai sono andate oltre la soglia di non ritorno. Il bioma della taiga è di fronte a un caos climatico. Le praterie e le steppe sono in pericolo. Le regioni alpine sotto minaccia. Il danno fatto all'Artico ormai è irreversibile. Fuck, che lista, ragazzi. Hey! niente, qui una scena, appunto, si diceva Ritorno della fame a Milano in Italia, nel Queens, la fila per la mensa della carità, per avere un pasto, per avere distribuzione di beni di prima necessità, sterminata, chilometri, fratelli e sorelle, chilometri. Niente, qui appunto un tweet di David Wallace Wells, l'autore di La Terra Non Più Abitabile, Uninhabitable Earth, che è stato un po' il bestseller dell'anno scorso, ispiratore di Extinction Rebellion, che stima che metà della impronta carbonica britannica è prodotta all'estero attraverso i beni che l'Inghilterra, la Scozia ancora, eccetera, comprano. Qui si vede un mega container della Maersk, un'impresa danese che appunto ha costruito la sua fortuna col fatto che Copenaghen è lì allo stretto della sonda fra Baltico e Mare del Nord, uno degli snodi principali del traffico mercantile. Non si ferma la repressione di Xi Jinping contro gli attivisti di Hong Kong della rivoluzione democratica dell'anno scorso, quella che io chiamai provocatoriamente Black Bloc Republic, e niente, tre attivisti di alto profilo sono stati arrestati. Qui una ragazza che ha fatto un stranissimo robot in laser cut, tagliato al laser. È un robot che, se tu gli metti dentro una moneta da 25 cents, lui ti fa pat pat sulla spalla e dice proud of you son, e quindi proud of you in questo caso daughter, cioè è il genitore orgoglioso. Per 25 cent puoi avere anche tu il conforto di un genitore robot che ti dà il colpetto sulla spalla per dire che sei stato un figo. E niente, qui un'immagine molto simbolica e assai pericolosa. Abbiamo sempre detto Gallera, non abbiamo sempre detto, ma insomma ultimamente di sicuro avevamo montato una campagna contro Gallera, insomma ditelo come volete. Di fatto lui è stato estromesso dalla comunicazione quotidiana dei morti, adesso non ci sarà più ogni giorno per non far vedere quanto incompetenti sono, ma sarà ogni 2-3 giorni, e soprattutto Matteo Salvini si è insediato nel grattacielo della regione, nel Pala Lombardia, lì da Via Pola, per dirigere le operazioni. L'idea è di non far passare che la Lega sta gestendo in maniera criminale la crisi pandemica, e di riportare un successo in vista delle elezioni di Milano, da cui ormai, secondo me, ha estromesso Gallera, e chi se lo ricorderà mai più. Allora, niente, era appunto Fridays for Future, la 15ª settimana, Climate Strike Online. Qui una ragazza veramente acqua e sapone, avrà 14 anni, forse meno, dice Save the Bees, salviamo le api. Qui Fischel Bucot, che ha sempre battute definitive, commenta Antonio Pulito che dice: per quanto legga e rifletta, non riesco a cogliere il nesso tra religione del lavoro e coronavirus. E Fischel Bucot dice: perché sei un coglione. Allora, qui un'immagine allucinante, cioè un aereo in Australia che va verso Brisbane, o meglio da Brisbane a Townsville, alla miniera Adani nel Queensland, cioè la miniera enorme di carbone che violerebbe ogni tipo di accordo di Parigi, in un'Australia che, se ce lo fossimo scordato, è andata completamente a fuoco l'estate scorsa. Ora nella Dani c'è anche la Siemens. La cosa più allucinante di questo aereo pieno che vola è che sono tutti senza mascherina, cioè tutti questi ingegneri minerari che se ne vanno. Oh mamma. Niente, qui c'è la ministra Azzolina, sarà un esame serio, la video intervista, un presidente esterno e commissari interni. Non sono riuscito a determinare, neanche dai liceali che conosco, se ti possono segare o no, oppure se vale il promossi liberi tutti. Mi hanno spiegato che di fatto sarà così, almeno questa è la percezione che hanno i ragazzi. Mi chiedo se voi amici insegnanti, io tutti gli amici che ho insegnano alla quarta e non si sono tanto posti il problema. Comunque, auguro una promozione universale. Ecco, qui c'è il discorso della sieroprevalenza. Insomma, vogliamo essere scientifici, ci sono stati un paio di paper, ancora qui Wallace Wells, ma ho letto un altro su Medium, questo mega blog di Twitter sul too long to read, too long I didn't read, comunque in cui uno sta facendo le pulce a questo studio di Stanford, dove a Santa Clara sono andati a misurare e hanno trovato un 5% di esposti al virus. Qui per Milano si parla addirittura di un 30%, quindi che da un certo punto di vista è una buona notizia, perché si rafforza o ci si avvicina alla fantomatica immunità del gregge. Non sognano così le pecore dell'immunità del gregge, cioè comunque il fatto che è meglio avere una notizia di maggiore esposizione che di minore. Lì ne calcolo uno al 5%, ma soprattutto riflette sul fatto che con una precisione dell'85% e due falsi positivi misurati, le persone che sfuggono al controllo sono tali da inficiare ogni conclusione anche diagnostica. Io però rimango Gagliano di Ferro, il nostro comandante nella battaglia di Milano, che sta testando sierologicamente i tramvieri di Milano di fronte all'opposizione della giunta leghista e Forza Italiota, ma che appunto propone poi di tamponare tutti i positivi, quindi per avere un doppio controllo, però così dovendo fare un numero minore di tamponi. E quindi insomma questa mi sembra la via giusta. Fra parentesi, comunque non sarebbe lo stesso test utilizzato a Santa Clara, ma sarebbe sono quasi sicuro il test del San Matteo di Pavia, che mi sembra sia superiore al 90%. Comunque teoricamente ci sono due parametri, specificità e accuratezza, e sono inversamente correlati. Insomma, al massimo si può avere il 95% di tutti e due, quindi insomma i falsi negativi, i falsi positivi sono sempre una possibilità. Niente, qui c'è un commento di Kenneth Roth, il direttore di Human Rights Watch, l'organizzazione dei diritti umani finanziata da Soros. Io sono sorosiano di ferro. La Cina ha speso miliardi per comprarsi influenza politica in Africa, ma ora tutto si sta disfacendo a causa dei maltrattamenti ripetuti subiti dalla minoranza africana in Cina, dove i neri sono accusati assurdamente in maniera superstiziosa di diffondere l'epidemia, e anche dal rifiuto della Cina di concedere sconti sul debito. E invece vogliono che il debito africano sia impiegato per comprare opere pubbliche di imprese cinesi. Ecco, questa è una buona notizia: l'Università del Nebraska ha deciso di di abbonare le tasse universitarie a tutte le famiglie che fanno meno di $60,000. Ecco, questa è una rivendicazione che dobbiamo aggiungere al nostro arsenale, e cioè zero tasse universitarie fin tanto che dura la pandemia e anche dopo. Niente, boh, si alzano i soldi teorici, che però quasi nessuno ha ancora visto, a 800 euro, e c'è un bonus di 300 euro per le vacanze in Italia, anche perché quale altro paese ci vuole, non possiamo andare da nessuna parte. E qui un'altra scena biblica tremenda, a Clichy-sous-Bois, nella banlieue di Parigi, una delle città della banlieue di Parigi, 190 persone la prima volta, 490, 750 in fila per avere beni alimentari. Questa è la situazione, l'Europa, la povertà. E qui un ritratto da parte di Fridays for Future Italia di Luis Sepúlveda, scomparso per il coronavirus, che diceva: l'ultima rivoluzione rimasta in sospeso è quella dell'immaginario. Dobbiamo essere capaci di immaginare in quale mondo e società vogliamo vivere e se vogliamo essere cittadini o consumatori. Che la terra ti sia lieve. Allora, qui è Luca Darde, che è uno dei twittari più caustici che conosca. Non lo conosco personalmente, comunque, che commenta una notizia di Sala, che dice: per questo ho chiesto all'assessorato all'educazione di lavorare alla proposta di una sorta di summer school per dare una mano alle famiglie nella cura dei più piccoli, in cui spero potervi comunicare a breve i dettagli operativi, perché ovviamente le famiglie con bambini piccoli, io sono uno fra questi, sono disperati, e quindi pare ci siano delle colonie covidiche, insomma, oppure delle scuole aperte dove si possono fare attività. Non so, vediamo i dettagli. Comunque Luca Di Arde commenta: i bambini non possono uscire ma possono andare alla summer school, so cool. Niente, qui il meme assurdo di questi portatori di feretri ghanesi che ballano come su richiesta dei parenti dei defunti, che ha dato origine a tutta una catena di meme, al punto che adesso su Instagram c'è un filtro dove tutti puoi sostituire la faccia a tutti i sei che portano la bara e quindi fare questa danza macabra, suppongo, non so, l'equivalente di Lucerna e gli scheletri che danzano dopo la peste. Ma non so perché, beh, ogni tanto vado a vedere cosa trend a Milano, nel mondo, eccetera, nelle altre città. Comunque oggi tirava questa là dove c'era l'erba, ovviamente il ragazzo della via Gluck di Celentano, e la gente ha commentato, ha postato foto. Qui c'è una foto di felci, io amo la felce, l'associo alla natura primeva, non so, mi ricorda i dinosauri prima che il sapiens fosse sulla terra, insomma è il verde proprio, the deep green. E niente, associato a questa immagine una frase di Van Gogh: e poi io ho la natura, l'arte, la poesia, e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più? Allora, Gallera non si risparmia mai, e l'ultima coglionaggine è bloccare i test rapidi nei centri privati. Che non sia mai che la gente possa sviluppare conoscenza e informazione di proprio conto. Niente, qui c'è una notizia da Vice News, il Citizen Journalist, il giornalista investigativo qual è Stefano Manzi, che mi succederà alle 5:30, Chiang Qiushi andò a Wuhan per investigare sul coronavirus e per togliere il velo di segretezza che rischiava di lasciare il mondo impreparato a quello che sarebbe avvenuto. È scomparso, nessuno ha più sentito nulla di lui dal 6 febbraio 2020. E in America, se abbiamo sentito che c'è un'afrofobia in corso in Cina, c'è anche una, forse più forte, una anti-Asian racism, razzismo anti-asiatico, come si era visto anche a Milano prima che ci fosse il caso di Codogno, contro gli asiatici in America. In Texas un bambino è stato accoltellato in faccia e a Brooklyn un sino-americano è stato sfigurato con l'acido. E qui c'è un proclama delle brigate volontarie per l'emergenza Milano che condividiamo: mentre i politici e gli amministratori fanno proclami in TV ma di fatto si dimostrano incompetenti, criminalmente incompetenti, signori, ve lo diciamo chiaro, se non siete in grado di fare il bene della collettività, fatevi da parte, avanti tutta brigate! E vi lascio a questo punto, ci risentiamo dopo il weekend, martedì, vi abbraccio e vi lascio a voci dalla città infetta. Un abbraccio, ciao. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena. Ay, ah, hey. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ayy, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Yeah. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Ooh. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. Nope. She lick it up, make it disappear like Tata. Wow. She asked for some dollars, not a bitch getting out of her. Yeah. And I'm in this bitch for my click. Why? I'ma throw.